Ciao, benvenuto. Questo è il mio spazio privato, la mia piccola radio su internet, il mio giocattolo personale. Io sono Buck e ti do del tu perché, anche se non ci conosciamo, sicuramente si crea quella specie di confidenza che c'è fra qualcuno che comunica, specialmente se si mette in discussione registrando la propria voce, quindi mette davanti a tutti un po' la sua intimità, le sue piccole vergogne. A me la mia voce fa schifo, soprattutto se registrata. Comunque, benvenuto, questo è un nuovo esperimento. Sì, perché molti si impostano, molti vogliono fare il VJ figo, molti vogliono imitare Bertalotte. Bertalotte piace anche a me, ma io non sono lui. Quindi vedremo un po' dove andrò a parare, se questo è un è un semplice diletto o magari, chissà, magari miglioriamo insieme. Ho deciso che questo spazio non ha ancora un nome, magari mi aiuterai tu nello scegliere più avanti un'etichetta tra virgolette, insomma, per questo piccolo spazio, piccolo insomma un'ora, comunque vabbè. Ho scelto di dedicarmi principalmente ai suoni che provengono dai circuiti elettronici, nel senso che è tutto ben accetto: rock, punk, ska, reggae, hip hop, trip hop, pentapop, quello che vi pare. Però ho bisogno, la necessità di ascoltare musica elettronica. Non mi voglio neanche stare a giustificare più di tanto. Iniziamo subito con un gruppo italiano. Questi sono i Casino Royale, ma vi propongo un loro pezzo sì famoso, però in questa versione assolutamente nuova. Non so se vi ricordate questo pezzo, eh? Di voi non ricorda la voce bellissima di Giuliano Palma che ci faceva scoprire il trip hop italiano. Io invece ho deciso di farvi ascoltare però la versione reggae. sempre più vicino, così erano i Casino Royale, sempre più vicino all'anima, sempre più vicino a se stessi, al vero io, a quello che magari vuoi raggiungere. Io ho avuto proprio questa sensazione stamane, sul presto, verso le 8:30, 9. Dopo una notte insonne passata attaccato al computer, un po' disperato, un po' con la voglia di dormire, un po' no. E mi sono visto almeno, credo, 8 puntate di Scrubs della terza serie. Però no, non me ne dispiaccio poi molto, insomma, sono molto, molto simpatico. E questa mattina verso le 8:30, 9 esco e vado un po' a zonzo per la parte vecchia della città, un giro per il barrio gotico. Alla ricerca un po' di quello che sono stato, cercando di starmi sempre più vicino. Mi sono ritrovato in un vecchio caffè dove facevo colazione all'alba una volta. Panino con la frittata e patate, un panino assurdo, e un bel tè caldo per la modica cifra di 3,30 euro. E chi se la metta? Anche questo è un modo per essere romantici. Sì, mi sono sentito romantico. E poi sono tornato a casa, ho detto, sai che c'è? Registro la puntata e sono diventato radiomantico. A seguire c'è Cristina Donà con la sua versione, tra parentesi, qui dice robottino romantico, di una sua canzone molto bella che si intitola Invisibile. Thank you. Canzone affascinante, devo dire, anche questa penetra parecchio al di sotto della pelle. Questa era Cristina Donà con la versione, tra parentesi, robottino romantico, come almeno mi dice il file che ho scaricato, di Invisibile. Invisibile, che poi, leggendo il testo, sinceramente, mi lascia un po', come dire, affascinato e allo stesso tempo trovo difficile cogliere il senso logico, però forse è tutto lì il segreto, no? La poesia cos'è? D'altronde è questo, sottendere qualcosa, non proprio esplicitarla, per il resto c'è la prosa. Maestro di questo posso affermarlo, dopo aver ascoltato almeno 70 volte il suo disco, Diego Mancino. Diego Mancino è un neolaureato della musica leggera italiana, voglio dire così perché è nuovo sulla scena, però ad alti livelli, devo dire che ricorda molto Fausto Leali, Drupi come tipologia di voce, ma non c'entra proprio nulla. Questo è il centro cangiante dell'universo. Spuma dell'onda. immaginatelo, no? Tu ti svegli la mattina, ti metti le cuffiette, cerchi un bar per fare colazione, c'è sta roba che va, che ti porta a spasso, ogni canzone ha uno scorcio, un angolo, una fotografia, una cartolina, e vorresti solo... vorresti solo, non so... fotografare tutto e mandarlo, però senza farlo, ecco, come trasmettere l'emozione pura direttamente nella testa degli altri, delle persone che vorresti con te in quel momento, amici, amiche, parenti, nonni, zii, nipoti, cani, gatti, eccetera. E vado avanti con... ah, ecco, non so se continuare sulla musica italiana, esagerare un po', farvi due palle tanto, oppure io la metto lo stesso, mi piace, non me ne importa niente, questo è il mio spazio, questa è casa mia e qui comando io, di Dea Sonica con Il giorno della mia sana follia. Yeah. incredibile come Idea Sonica siano riusciti a fare questo pezzo, questa canzone, che è al contempo sia triste che felice. È un po' emblematica di ciò che può essere la follia, la sana follia, come la descrivono loro. Anche la mia di giornata effettivamente si è un po' trasformata nel mio giorno della sana follia. Comunque basta con la musica italiana, dai, andiamoci ad ascoltare qualcosa di diverso. Ti faccio sentire i Macaco con Nadeti. Llevo un ritmo pegado, escondido en mi guantera. No tiene bala, no tiene cañón. Tanto que seguro digo carretera, camino llevo. Carnet prohibido, caducao. Cruzo frontera entera buscando madrugada. Yo aquí derecho me he plantao. Comiendo tuerca y palanca, yo a ti te alcanzo con maña. Acción de cuervo he pillao. Somos lo que somos, somos lo que vemos, somos lo que oímos, somos lo que rueda, somos lo que anda y va. Somos lo que somos, somos lo que vemos, somos lo que oímos, somos lo que rueda, somos lo que anda y va. No quiero nada de ti, guayo, no quiero nada de nada, oye, guayo, no quiero nada de ti, guayo, no quiero nada de nada, oye, guayo, no quiero nada de ti. A mi modo, así de cualquier modo, bebiendo guasa con ron, robando bala y gatillo, así disparo mi ruido, mico en la mano en mi razón. Gózalo en tu corazón, hierba buena va mi globo. Gózalo en tu corazón, hierba buena va mi globo. Oye, ahí va. Me voy. Somos lo que somos, somos lo que vemos, somos lo que oímos, somos lo que rueda, somos lo que anda y va. No quiero nada de ti. Somos lo que somos, somos lo que vemos, somos lo que oímos, somos lo que rueda, somos lo que anda y va. No quiero nada de ti. Vai con la rumbetta, questi erano i Macaco con Nadeti. Poi non so chi si è inventato il luogo comune della samba o della rumba da mettere in ascensore, però sai, l'ascensore è quello schifosissimo metro quadrato che devi condividere anche con gli estranei, è effettivamente la situazione ideale per una qualsiasi serie TV. Addirittura sarebbe meglio secondo me di Camera Caffè, perché non tutti prendono il caffè, ma l'ascensore sì, lo prendono quasi tutti. E ricordo quando, oddio, che situazione disgraziata, una volta mi è capitato a Roma, dentro un ascensore esattamente di un metro quadrato, di ritrovarmi all'angolo perché A occupare gli altri tre c'era Giuliano Ferrara. Fra la puzza di sigaro e di non so cos'altro, sinceramente mi sono sentito male. Comunque, al bando i vecchi e i cattivi ricordi, il prossimo pezzo è di Andre Zimma, featuring Thief, e il pezzo si intitola Time Exists Memories. I remember the times when things were new, when we were the first and we were pure. I remember the time when things would be easy. I remember the times when we were genuine, when we made the rules we set to seem. I remember the times when things could be easy. This is over. Time exists in memories. This is over. Days when we were for real, when we spoke the truth we really could feel. I remember the days when we were special. I remember the days when sparks would fly. We were walking the streets inspired with style. I remember the times when we were special. Questo pezzo, questa composizione di Andre Zimma featuring Thief. E il titolo della canzone dice che il tempo esiste nella memoria, ma il tempo nella memoria si trasforma, diventa elastico, si allunga, si accorcia a seconda di come abbiamo vissuto quel momento, intensamente o meno. Forse il tempo è direttamente proporzionale all'intensità delle emozioni, chi lo sa. Comunque non c'è legge matematica per queste cose. A seguire c'è invece un'altra chicca elettronica di una ragazza che si chiama Clara Hill. Il pezzo del brano è Once I Know, e ditemi la verità se non somiglia molto al pezzo che abbiamo ascoltato prima. Give so was just looking for someone who was loving me like you did. Oh, I do things so unique, fade away so fast before I can breathe in. Now I see love is not what it seems to be. Straordinario quello che una voce può fare, soprattutto il modo in cui una voce può attirare l'attenzione di un ascoltatore, a differenza di, per esempio, il suono che esce da un sintetizzatore, da una chitarra o, che ne so, anche un pezzo solo strumentale. Ovviamente non ha lo stesso impatto, la stessa, come dire, lo stesso feeling che crea con l'ascoltatore in sé. Ovviamente parlo di un bravo cantante o di una brava cantante. E ciò che fa la differenza fra la voce di un essere umano e una voce riprodotta al computer o addirittura una voce sintetizzata al computer forse è proprio quella componente di errore, l'errore umano. L'errore umano è quella scintilla, è quella particella di vita che riesce a trasmettere emozioni anche se poi uno usa un sintetizzatore, una chitarra o un oggetto per emettere suoni, però la voce è qualcosa di veramente inimitabile, neanche risintetizzabile, devo dire, perché ci hanno provato in tanti, ma è impossibile. Puoi anche rifare la voce di John Lennon dopo che è morto, poi, che ne so, puoi far rivivere Pavarotti, ma non ha senso, non c'è quella stessa vibrazione, quella stessa emozione. Ne sanno qualcosa gli Uberphonic, che con la voce hanno veramente sperimentato di tutto, eppure la loro cantante riesce sempre a distinguersi in una maniera molto particolare, anche quando il pezzo potrebbe anche essere autonomo per conto suo. Questo è il caso di Renaissance. Complain, cheat. Ecco, non so che cosa ne pensi tu degli Uberphonic, però io 5-6 anni fa non gli avrei dato una lira. Poi uno commette degli errori, si sbaglia, come nel mio caso, insomma, mi sbaglio, spingo il tastino del computer sul Mule e mi ritrovo con la discografia di tutto un gruppo. Ovviamente è diventata la mia abitudine, quindi quando io ho dei dubbi su qualcuno scarico l'intera discografia e mi rendo conto di che tipo di lavoro ha fatto, che ne so... I singoli sono solamente commerciali, però ecco, il resto del lavoro va bene, come nel caso degli Uberphonic, che poi non solo, anche i singoli insomma erano bei pezzi, ma veramente belli. Però ecco, il dubbio rimane sempre: che faccio? Scarico o non scarico? Aspetto questi 5-6 giorni? No, io lo uso come metodo, poi magari uno può anche cancellare, però se sei fatto come me è meglio che ti compri 7-8 hard disk esterni da un tera e via così. Comunque andiamo avanti, il prossimo pezzo è abbastanza vecchio, però si sa difendere molto ma molto ma molto bene, soprattutto perché viene da un grande gruppo che sono i Daft Punk e della semplicità hanno fatto il loro rito. Di conseguenza ti faccio ascoltare Something About Us, buon ascolto. caro Robert Moog, tu che sei nell'alto dell'Olimpo dei sintetizzatori, ti prego, benedici Daft Punk per sempre, per sempre. Quindi si conclude qua questa prima puntata di non so come nominarmi, come autoproclamarmi, questo è il mio spazio. Io ho cercato oggi di essere radiomantico, diciamo così, radiomantico forse è una definizione, potrebbe andare bene. Comunque grazie per l'ascolto, io e te ci sentiamo forse la settimana prossima o magari fra due settimane, non lo so. Ti lascio con un pezzo di Lisa Shaw, una bravissima cantante, anche vocalist, certe volte sottovalutata, ma chi lo sa. Comunque il pezzo si intitola Hot Skin, goditelo, ciao, buon ascolto. Thank you.